Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti oggi a Obiettivo Salute con voi in diretta dalle 10.30 alle 11 è intervenuto il professor Antonio Pesenti, direttore del Dipartimento di Anestesia, Rianimazione ed Emergenza del Policlinico di Milano e coordinatore dell'Unità di Crisi di Regione Lombardia per le terapie intensive, e ha fatto proprio il punto sulla situazione delle terapie intensive in Lombardia. La buona notizia è che il numero dei trasferiti dalle terapie intensive nei reparti a bassa intensità supera i 100, mentre il numero sfortunato dei decessi è inferiore ai 100, quindi abbiamo più persone che guariamo di quelle che non riusciamo a guarire. Abbiamo fatto, la Regione Lombardia, tutti i nostri colleghi hanno fatto uno sforzo straordinario per alzare la capacità delle terapie intensive. Sì. Noi siamo partiti con 750 letti di terapia intensiva, oggi ne abbiamo più di 900, anzi 950 almeno. Non ci sono le mascherine in alternativa. Che ne pensa di quelle fatte a casa con mezzi un po' di fortuna? La carta forno, il fazzoletto di stoffa rivestito con la pellicola degli alimenti? Questa è una delle tante domande a cui ha dato risposta la professoressa 5 dell'Unità Operativa di Malattie Infettive dell'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. Attenzione, facciamo molta attenzione. Diciamo che l'idea che incoraggia la produzione di questi dispositivi fai da te, che comunque mi proteggo, certo se io sono in uno scafandro sono protetta, però se utilizziamo dei materiali che non sono adeguati, delle forme, delle strutture che non sono adeguate, rischiamo perché creiamo un senso di falsa sicurezza e quindi evitiamo di tenere degli accorgimenti che sono molto più importanti, per cui per favore non utilizziamo sistemi che non sono provati a essere protettivi, che non ci proteggono, non ci tengono al sicuro. Bene, per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog, io vi aspetto domani a mezzogiorno a Obiettivo Salute Weekend e poi la programmazione dello spazio Obiettivo Salute con voi in diretta riprende lunedì alle 10.30. Vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.